I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. I dati diffusi ieri sulle immatricolazioni di auto nuove in Italia confermano che il 2014 si chiuderà in maniera assolutamente positiva. Dopo anni di cali continui, le immatricolazioni a questo punto dovrebbero essere cresciute nell'intero anno intorno al 5%. Il dato ancora provvisorio segnala un più 4,3%, ma vale la pena ricordare che non c'è stato alcun mese, ad eccezione di maggio, dove le immatricolazioni auto siano calate. Uno potrebbe pensare che questi dati rappresentino un seppur timido segnale di un risveglio dei consumi degli italiani, visto che l'acquisto di un'auto è un consumo, è un investimento tutt'altro che di piccola entità. In realtà il dato va preso con attenzione e con le pinze. Si veniva, come dicevamo, da anni di continui cali nelle immatricolazioni e c'è un tasso di sostituzione dell'auto che gli esperti chiamano fisiologico. Tu puoi rimandare quanto vuoi l'acquisto di un'auto nuova, ma poi a un certo momento la devi cambiare. Il dato viene anche confortato dal parco auto circolante, che non è diminuito in questi anni, a segnalare che gli italiani hanno continuato, e ci mancherebbe, a utilizzare l'auto, ma usando l'auto vecchia, non comprando auto nuove. Vedremo se poi, anche alla luce di nuovi modelli, il 2015 porterà invece una conferma ulteriore di questo dato. Per ora è troppo presto per pensare a una vera e propria inversione di tendenza. Nel grande assente all'appello economico, i consumi delle famiglie italiane. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Ieri sera il governo ha rinviato la decisione sulle modifiche alla disciplina della prescrizione dei reati. È solo l'ultima conferma di come sia difficile nel nostro paese ragionare in modo costruttivo sui temi della giustizia, soprattutto di quella penale. Ma sempre ieri sera e sempre in tema di giustizia penale, il Consiglio dei Ministri ha preso una decisione che non mancherà di suscitare polemiche, anzi già le sta suscitando. Arriva infatti un decreto che consente al giudice di archiviare un procedimento penale quando il fatto è occasionale ed è anche di lieve entità. Significa di fatto che viene prevista una nuova causa di non punibilità per i piccoli reati, per quelli che i tecnici chiamano i reati bagatellari, cioè quelli della micro e della mini criminalità. Il punto è che tra questi reati potranno evitare sanzioni, sono comprese anche quelli che prevedono pene fino a 5 anni di detenzione. Tanto per fare qualche esempio, vi rientrano, ma parliamo in astratto perché toccherà al giudice decidere valutando appunto la scarsa gravità di questi fatti, vi rientrano, dicevo, il furto semplice, la truffa oppure i delitti come le lesioni personali. Sono incluse in teoria anche molte ipotesi di reati societari. L'obiettivo di questa norma è di evitare che per fatti occasionali e di piccola gravità si venga svolto il processo penale, alleggerendo così il carico giudiziario. È una strategia certamente condivisibile che mira a limitare l'uso delle pene detentive, come già avviene in molti altri paesi. Speriamo solo che non sia percepita dall'opinione pubblica come la ritirata di uno Stato sempre più in difficoltà nel far funzionare la giustizia penale. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it.